Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di radio Onde Furlane. Proseguiremo fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con la sigla di questo programma. Bene, allora questa era la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, trasmettiamo da Udine. Questa odierna trasmissione, appunto diretta 8 gennaio 2026, appunto la prima per quest'anno nuovo. E che altro dirvi, che proseguiremo come sempre. Ricordo che la trasmissione venne condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora apriamo questo 2026 invece così con una, cioè così, con una brutta notizia, ovvero che nei recenti giorni è venuto a mancare Massimo Leonardi, cantante dei Tear Me Down, band di Viterbo, insomma tra Viterbo e Roma, band che si era formata esattamente, insomma, 30 anni fa circa, 1994. Ricordo che nel 1996 esordirono con un 7 pollici che si intitolava Più sbirri morti, quindi già sono partiti, diciamo, con la marcia giusta. Poi nel 2002 fecero un album e dove noi abbiamo estrapolato questo brano che si chiama 10 100 1000 H. Laurenzia, che ora andiamo all'ascolto. Bene, questo, come ho detto, era un brano preso da un loro album datato 2002 che si chiamava Vincere, e loro appunto sono i Tear Me Down di Viterbo. Questo era il brano 10 100 1000 H. Laurenzia, e volevo anche ricordare che comunque la band venne a suonare a Udine alla fine degli anni 90, primissimi 2000, e al CSA di Via Volturno qui a Udine. Comunque andiamo con un altro brano loro che si intitola Prendi una posizione, sempre Tear Me Down. Così ora volete sfidarmi? Dobbiamo ripagarti per aver rotto il braccio del nostro amico, e nel prossimo incontro che sosterrai ti soffocheremo nella pozza del tuo stesso sangue. Caratteriale con persona sola come una classe divina, non provo pena ma angoscia come prima. nella sua povertà è una macchina pensata di conservazione, forse non tempo per regnare e non tutta qualità. Benvenute e benvenuti a tutti voi per questo rientro in diretta di Zardins Magnetics del 8 gennaio. Siamo andati in onda, diciamo più che altro, siamo andati in differita gli scorsi due giovedì che erano festivi, appunto in registrata. Chi ci ascolta magari in FM può recuperare tutto nel nostro blog Zardins Magnetics Radio. Io vado così, prima di tutto, a farvi una panoramica approssimativa di stasera. Degli interventi nostri saranno incentrati sulla offensiva, diciamo, repressiva verso il movimento pro-palestinesi e contro gli stessi palestinesi della diaspora in atto qui nello stivale. E quindi presenteremo, così rilanceremo un'iniziativa che si svolgerà e poi faremo altre considerazioni. E dopo la successiva, insomma, intervento musicale, faremo invece prendendo spunto da un articolo molto approfondito uscito sul numero 3 di Sfare, che è disponibile per chi è interessato al spazio autogestito qui a Udine. Prendendo spunto da questo articolo faremo così una serie di considerazioni e ragionamenti sulla provenienza di determinate tecnologie, proprio anche sull'origine, sulla loro genealogia, che è appunto sempre quella assassina militare, no? E dopo vedremo, insomma, come bene o male come procedere. Io, ecco, allora fra 5 secondi, 10 secondi riprendo il fiato e poi passo appunto a questa iniziativa che vi dicevo. Sì, allora parlavamo di questa di questo presidio di protesta che si svolgerà venerdì 9 gennaio alle 11:30 a Roma. Dove? Davanti alla sede della Direzione Nazionale Antiterrorismo e Antimafia, che si trova in via Giulia 52 a Roma. Vi ricordate chiaramente questo organismo, questo apparato dello Stato, fondato ai tempi delle stragi di mafia cosiddette, primi 90, è articolato in tutto il territorio nazionale. Ma la direzione, appunto la sede della direzione centrale, è a Roma, appunto, e i compagni del coordinamento di solidarietà con il popolo palestinese di Roma, insieme ai giovani palestinesi d'Italia, insieme all'Unione delle Associazioni Palestinesi, insieme a Soccorso Rosso Internazionale, insieme a Rete Liberi di Lottare, e infine all'assemblea antimilitarista Sabotiamo la Guerra, hanno promosso questa efficace, insomma, questa significativa iniziativa che si svolgerà in preparazione a quello che sarà venerdì prossimo, invece il 16, l'udienza conclusiva del processo contro Hanan Yaesh, partigiano della Cisgiordania, perseguitato in Italia dal Tribunale dell'Aquila, hanno promosso questa giusta, diciamo, improrogabile iniziativa. Stessa regia, Direzione Nazionale Antiterrorismo e Antimafia, diversi processi, stessa regia. La DNAA, guidata dal sionista Melillo, che è il procuratore nazionale antimafia del PD, magistrato in quota PD, Partito Democratico, sta orientando i processi contro i colpevoli di Palestina, fra virgolette, in tutto il paese, che sarebbe l'Italia, trasformando i tribunali italiani in succursali dei tribunali delle forze di occupazione israeliane in Palestina. Avevamo già visto questo, già parlato, insomma, avevamo dato gli aggiornamenti delle precedenti udienze al processo dell'Aquila contro Hanan Yaesh. 28 anni in totale richiesti dal pubblico ministero contro Hanan, Ali e Mansour per non aver commesso reati contro lo Stato italiano. E a questi si sono aggiunte le persecuzioni contro Annun, Shahin, Salem, Tarek e tanti altri colpevoli di solidarietà con la Palestina contro i genocidi sionisti o semplicemente per essere arabo-palestinesi. Libertà per Hanan Yaesh e tutti gli altri perseguitati contro i tribunali al servizio dell'occupazione della Palestina, contro la sionizzazione dello Stato italiano. Quindi la chiamata è di tutte queste realtà che vi ho detto, e noi non ci siamo, insomma, dall'ultima nostra diretta in mezzo appunto è scoppiato anche questo caso, qui magari dopo ritorneremo su Mohammed Annun, il referente, diciamo, della comunità palestinese di Genova. E tutte queste realtà che vi ho prima elencato quindi chiamano a questo presidio di protesta a Roma per venerdì 9 gennaio ore 11.30, in vista anche dell'appuntamento che sarà nazionale, questo, all'Aquila per il 16 gennaio. Ultima cosa, poi passo la linea, come si dice, alla musica, alla regia musicale, chiamiamola così, compagni che sono di là del vetro, e si sta andando verso una analoga iniziativa che verrà fatta in, diciamo, in solidarietà con questo tipo di mobilitazioni a livello locale nostro qui a Udine, e sarà il 17 e il 17 gennaio, 17 gennaio sabato, sarà nella mattinata e sarà in Chiavris, un'iniziativa di appunto protesta contro la manovra repressiva contro i palestinesi e contro il movimento di solidarietà verso tutti i palestinesi in lotta, e su cui naturalmente ritorneremo nella prossima puntata di Zardins Magnetics, ma intanto ve l'ho, insomma, preannunciato, e quindi segnatevi questo appuntamento per sabato 17 gennaio, Udine, Piazzale Chiavris. morbida costituzionale, trabalhista pesado com gestão alimentar degradamente, lesão traumática no fora de contratura de costela, quase infeccioso de vias aéreas, grave insuficiência respiratória com retenção de CO2, toque infeccioso na base esquerda, intenso bronco espaço, melhora progressiva do quadro pulmonar, porém um desencadeamento da diabetes mellitus, ressuscitou broncoscopia e função torácica esquerda com remoção de 1.800 mililitros de transudato. Sì, un saluto anche da parte mia. Dopo questa pausa in cui appunto è mancata la diretta, allora sì, abbiamo iniziato Zernis di oggi appunto ricordando questa importante iniziativa di domani a Roma di fronte alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che appunto rappresenta la regia proprio di questi processi farsa che sono ai danni dei palestinesi della diaspora, ma anche come anche di resistenti che hanno fatto appunto che hanno combattuto in Palestina, come anche peraltro di dei solidali che insomma si sono schierati qui in Italia a fianco della resistenza palestinese. Sì, rispetto a questi processi farsa appunto è importante dire che tutto l'impianto diciamo accusatorio si basa su testimonianze, documenti israeliani, ad esempio del Mossad, relazioni appunto dell'intelligence, esperti anonimi israeliani, per cui addirittura i tribunali, insomma alcuni tribunali sono un po' in difficoltà, nel senso che alcuni di queste testimonianze non sono propriamente legittime, no? Neanche all'interno dei tribunali di Stato, in quanto c'è proprio un impianto per cui giudice e testimone coincidono. Questo è un segno anche dell'asservimento, diciamo, più che dell'asservimento, io direi dell'alleanza dello Stato italiano con lo Stato di Israele, e per cui appunto lo Stato di Israele processa chi si oppone, chi gli si oppone attraverso le istituzioni giudiziarie italiane, e appunto questi processi sono dei veri e propri processi politici volti a stroncare la resistenza e a legittimare l'occupazione e il genocidio in Palestina, ma volti anche a mettere a tacere e diciamo smembrare quello che è il movimento di lotta solidale con la Palestina, ma che ha diciamo preso coscienza e forza, insomma, e ha portato la Palestina a casa, quindi appunto qui dove viviamo noi, e per cui è importante lottare e dare solidarietà alla resistenza palestinese, anche per non farsi appunto scompaginare, intimidire, anche proprio per le dinamiche interne, diciamo, della repressione interne allo Stato italiano. È una forma di guerra che si svolge su due piani, quella interna appunto e quella esterna. E, si parlava prima di Mohamed Hanoun, che appunto è l'operazione che ha portato in galera lui e altri sei uomini, quasi tutti palestinesi, comunque diciamo musulmani, e accusati tutti appunto, perché c'è questo discorso del terrorismo, quindi accusati di 270 bis, quindi di collaborare con Hamas, no? E quindi di svolgere attività terroristica. E in questa operazione qua che è stata lanciata lì subito dopo Natale, sono state colpite anche altre persone, ad esempio una antropologa giornalista che è fondatrice della, del blog Infopal, che si chiama Angela Lano, la quale appunto ha subito perquisizioni, sequestri di tutto il materiale, di un sacco di materiale suo di studio, ed è stata proprio accusata di essere praticamente la capo della propaganda di Hamas in Italia, proprio per il lavoro che lei svolge insieme ad altri per questo blog che si chiama appunto Infopal. E sì, anche su questa questione qua, ad esempio, questa antropologa giornalista ha parlato, a proposito di queste operazioni, ha parlato dell'eredità viva del colonialismo nelle società contemporanee. E cioè lei dice, anche se infatti lei dice mi colpiscono per il lavoro decolonizzato che svolgo appunto in questo blog che ha sempre sostenuto la causa della Palestina, e lei dice anche se l'eredità del colonialismo, lei lo chiama la colonialità del potere, lei dice anche nel momento in cui sembra che il colonialismo sia stato superato in alcuni paesi da un punto di vista del sistema di governo che vi si è insediato, in realtà il colonialismo continua ad agire nella società contemporanea sotto forma di discriminazione sociale e praticamente si integra negli ordini sociali, e questo succede anche in maniera precisa in Europa, insomma negli stati cosiddetti democratici, e si infiltra nelle forme di conoscenza, per cui appunto viene criminalizzata ogni forma anche di conoscenza che cerca di scardinare questa colonialità appunto del potere. E un'altra cosa significativa di queste operazioni repressive, che sono veramente molto aggressive, e una cosa che mi ha colpito ad esempio riguardo sempre a Mohamed Hanun, dopo le proteste davanti al carcere di Marassi, lui è appunto, non so se è già stato trasferito, ma comunque ecco, è già stato trasferito, era a Marassi, quindi un carcere non di massima sicurezza, era in isolamento. Il 31 dicembre c'è stato un presidio insomma di solidarietà e protesta davanti al carcere, e quindi subito hanno pensato bene di trasferirlo, e le ipotesi erano due carceri di massima sicurezza, insomma o Ferrara o Alessandria, comunque di trasferirlo appunto in un istituto di massima sicurezza, decisione dei magistrati di sorveglianza, proprio per rompere, cioè per creare una situazione, insomma per blindare ecco la situazione, e quindi rompere i rapporti tra fuori e dentro e la solidarietà. Anche per questo è importante, perché queste sono le dinamiche. Abbiamo visto anche il trasferimento punitivo di Hanun dal carcere, in questo caso di massima sicurezza, di Terni, dove c'era comunque, si era creata una comunità solidale all'interno della sezione, trasferirlo appunto per rompere questa per spezzare insomma questa anche questo confronto, no, tra prigionieri, che è un confronto di crescita e di crescita politica, di scambio, e che dà la possibilità dentro e fuori insomma di portare avanti appunto le lotte, di continuare con le lotte. Quindi a maggior ragione per questo fatto è importante non battere il chiodo, nel senso di non fermarsi, cioè non stare fermi di fronte a queste manovre appunto di guerra, perché altrimenti se si sta fermi loro vanno avanti. Sì, eccomi di nuovo qua. Allora, per chi ha ricevuto la promo, insomma, di questo giovedì, e nella frase che abbiamo scelto, e abbiamo anche scritto: in questo scenario di guerra non ci saranno diritti più o meno internazionali a difenderci, per questo compito siamo tutto ciò che abbiamo. Siamo tutto ciò che abbiamo, lottare contro la guerra oltre le sbarre, oltre i confini, è appunto un contributo. Anche questo apparso su Disfare, l'ultimo numero di Disfare, numero 3, che si citava prima, appunto. E da questo contributo volevo leggervi due o tre piccoli. Insomma, estratti. Uno è una dichiarazione di Casey Gunan dal carcere di Mendota negli Stati Uniti, e tratta dalla dichiarazione di adesione allo sciopero della fame in solidarietà con quello di Teuta Osha di Palestine Action. Ci dice Casey Gunan: come prigionieri incarcerati per la nostra partecipazione al movimento di liberazione palestinese in Occidente, abbiamo la responsabilità reciproca, oltre i confini, di vivere la nostra vita in prigione con la stessa fermezza del movimento dei prigionieri palestinesi, tenuti prigionieri nelle prigioni israeliane. Gli stati da cui siamo stati catturati sono i facilitatori del genocidio accelerato dei palestinesi da parte dell'entità sionista, così come dei genocidi in corso dei neri e degli indigeni, le cui terre continuano a occupare. Mentre la sinistra occidentale continua a passare da una crisi all'altra, evitando le proprie responsabilità nei confronti della Palestina, noi siamo tutto ciò che abbiamo. E ancora Anan Yaesh dal carcere. Al tempo era ancora al carcere di Terni. La guerra non è contro l'entità occupante, che possiede uno degli arsenali militari più potenti al mondo, ma contro tutte le potenze coloniali di questo mondo occidentale e persino arabo. La resistenza palestinese si è trovata sola in una terza guerra mondiale ordita e gestita dal regime sionista e americano contro il popolo palestinese. Ciò nonostante, continua a resistere, a combattere, e non ha alzato e non innalzerà la bandiera della resa. E ancora, da un comunicato dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, comunicato che è stato scritto questo autunno in solidarietà ai Prisoners for Palestine nel Regno Unito: la nostra lotta per la liberazione è stata e rimane parte integrante della lotta internazionale contro le forze del colonialismo, dell'imperialismo, del sionismo e della reazione. Di conseguenza, salutiamo tutti i prigionieri politici nel mondo, la lotta del movimento di liberazione, dei neri in America, la lotta dei popoli indigeni per l'autodeterminazione e la liberazione, e tutte le forze di liberazione nel mondo, e chiamiamo a rafforzare il rapporto tra questi movimenti e tutte le comunità palestinesi in esilio e diaspora. Seguiamo con orgoglio i vostri sforzi e apprezziamo molto il vostro sostegno ai prigionieri nelle prigioni dell'occupazione. La nostra libertà come prigionieri in Palestina arriverà inevitabilmente con la liberazione di tutto il nostro popolo. Sconfiggeremo le prigioni con la fine della colonizzazione sionista in Palestina. Yeah. intanto stiamo ascoltando in sottofondo questa band brasiliana, loro sono gli storici Ratos de Porauda, questo loro mini album Guerra Civil Cannibal. Chiudiamo, diciamo, un po' questa prima parte. Volevo leggere il comunicato di risposta dei giovani palestinesi d'Italia e dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese all'attacco della Meloni verso le organizzazioni palestinesi. Intanto c'è stato questo siparietto infame della presenza di Abu Mazen ad Atreju, e che è di questo festival, appunto, di Abu Mazen dell'Autorità Nazionale Palestinese, il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, e appunto presente ad Atreju, che è questo festival dei fasci, insomma, di governo. E in questo contesto la Meloni ha attaccato le realtà e i movimenti palestinesi nel comizio finale così i giovani palestinesi d'Italia e l'Unione Democratica Arabo-Palestinese ha deciso di scrivere questo comunicato, insomma, di risposta, diciamo, cioè di reagire a questo attacco. Ma intanto dicendo che questo attacco, appunto, governativo rivela, diciamo, la capacità del movimento di resistenza palestinese di rivelare le fratture e le contraddizioni del sistema politico italiano internazionale. E loro dicono, compagni appunto palestinesi, dicono che la Presidente del Consiglio ad Atreju li ha interpellati direttamente pretendendo di sapere se la resistenza della quale parliamo sia Hamas. e loro dicono ribadiamo, cioè dicono siamo d'accordo con Meloni quando dice che la pace non si fa con le canzoni John Lennon ma con la deterrenza, e ribadiamo che, come dimostra l'oltre un secolo di lotta anticoloniale del nostro popolo, in Palestina l'unica deterrenza contro Israele è la resistenza. Chi ha storicamente rappresentato i palestinesi in Palestina e nella diaspora non è mai stato un organo imposto dall'esterno, ma il movimento di resistenza nella sua pluralità di movimenti, partiti, fazioni e gruppi che hanno guidato e sostenuto nel tempo tutte le forme della lotta di liberazione. La resistenza palestinese non è un fenomeno contingente né riconducibile a un singolo attore, è un processo storico che si sviluppa da oltre un secolo e che si esprime in forme molteplici. Dalla resistenza politica e sociale a quella culturale, dalla resilienza quotidiana delle comunità al sacrificio dei prigionieri, dei giornalisti, delle donne e dei bambini sotto assedio. Perciò l'unico legittimo rappresentante del popolo palestinese è chiunque e qualunque fazione lo difenda contro l'occupante sionista, compresi alcuni membri proprio del partito del suo ospite e caro amico Abu Mazen. Uno di questi si chiama Ananya Esh, detenuto in Italia, a Melfi, con false e ingiuste accuse. Anan non è né un membro di Hamas né di qualche partito comunista combattente, ma un militante di Fatah, che tecnicamente è il partito dell'autorità palestinese. Abu Mazen ha mai parlato a Meloni di Anan? Ha mai preteso la sua liberazione? Certamente no. E questo dà la misura di quanto sia traditore dei palestinesi, a partire da quelli che dovrebbero essergli più prossimi. Meloni ha paura delle autoproclamate, virgolettato, associazioni palestinesi, perché sa che noi abbiamo più legittimazione di un burattino come Abu Mazen, perché sa che alla testa della piazza del 4 ottobre c'eravamo noi e non l'ambasciata palestinese, che in 2 anni non ha proferito mezza parola sul genocidio e che non muove un dito per la liberazione dei prigionieri palestinesi detenuti in Italia. Questa messa in scena è un inutile tentativo di riabilitare un leader riconosciuto solo da una comunità internazionale che rifiuta di ammettere le proprie responsabilità storiche nel progetto coloniale israeliano. Un leader non riconosciuto dal suo stesso popolo per il suo ruolo di sostegno all'occupazione sionista. Allo stesso tempo, la sua partecipazione al convegno dei Fratelli d'Italia è un chiaro tentativo di rilegittimare il governo Meloni di fronte all'opinione pubblica e di fare dimenticare il protagonismo italiano nel genocidio e nelle pratiche di oppressione coloniale. Ma il genocidio non sarebbe stato possibile senza il contributo fondamentale del Made in Italy. L'Italia, infatti, è il terzo esportatore europeo di armi verso Israele, che invece è il secondo fornitore di armi all'Italia, che con i suoi contratti militari, economici e accademici sostiene pienamente l'occupazione e lo sterminio dei palestinesi. Il massacro non sarebbe stato possibile senza l'incessante lavoro di sostegno diplomatico che il suo governo ha svolto per Tel Aviv a tutti i livelli in ogni occasione. Solo questo completa e rende pienamente giustizia al quadro illusionista che la Premier ha dipinto ad Atreju. I bambini che lei ha fatto umanamente venire in Italia per curarsi sono doppiamente suoi, perché la mano italiana li ha bombardati prima e curati poi. Ugualmente gli aiuti sono stati possibili solo grazie al contributo dell'Italia all'assedio e alla fame di Gaza. Rimanere saldamente al fianco della resistenza e opporsi ai collaborazionisti è fondamentale ora più che mai, perché è proprio sul disarmo e sulla riabilitazione dell'autorità palestinese che si gioca il piano Trump per la colonizzazione della Palestina e per la liquidazione della sua causa. Le organizzazioni palestinesi in Italia pretendono dallo Stato italiano quello che Abu Mazen non pretenderà mai: l'embargo totale delle armi ad Israele, la rottura di ogni rapporto militare, economico, politico e accademico, e soprattutto la liberazione di Ananya Esh e la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi e per la Palestina in Italia. Appunto, questo era il comunicato che i giovani palestinesi d'Italia e l'Unione Democratica Arabo-Palestinese ha fatto, insomma, in risposta all'attacco sferrato dalla Meloni nel festival, appunto, di Atreju. Questo comunicato è del 21 dicembre scorso ed è stato pubblicato nel sito Pungolo Rosso. A proposito di collaborazione e di complicità degli apparati così della repressione italiani con l'autorità, sì, cosiddette, con Israele, con lo Stato di Israele, la sua politica di massacro, genocidio, non secondario è anche il fatto che questa manovra in questo particolare fase, insomma, qua di gennaio 2026, dicembre-gennaio, questa manovra va anche in direzione di tutte quelle migliaia, centinaia di migliaia e milioni di persone che abitano in Italia, che lavorano, eccetera, o che sono disoccupati, uguale, che sono scesi in strada tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, quando c'è stata la mobilitazione per la flottiglia. Allora, a questo proposito noi vorremmo dare lettura di un comunicato che è uscito un po' in un momento infelice, ovvero il 25 dicembre, alcuni compagni di Padova, gli stessi che hanno subito varie vessazioni già raccontate da questi microfoni, che veramente fanno incazzare, e sarebbe anche ora basta. La repressione ha sempre avuto gambe lunghe e piedi piatti. Chi ha paura dell'anarchia, sul reato di blocco stradale contestato a un compagno e una compagna di Padova. La repressione ha sempre avuto gambe lunghe e piedi piatti, gambe lunghe che superano ogni porta, cancello e siepe per cercare di prenderti, piedi piatti per schiacciare tutto omogeneamente, sommariamente, senza farsi troppi pensieri sugli spazi sottostanti. Se di queste conformazioni fisiche della controparte in divisa avevamo ben coscienza da tempo, non ci aspettavamo certo di vederla diventare finta invalida e al contempo centometrista. Ma facciamo un passo indietro: durante il beneamato sciopero del 3 ottobre, amato perché si sa che non c'è gioia più grande che non lavorare, in tutta Italia, nelle strade, nelle piazze e anche nelle carceri, come alla Dozza di Bologna, succedevano accadimenti e vicende a sostegno del popolo palestinese. Così anche a Padova, in tutta in tanti e tante si è saltato lavoro, si è saltata scuola, università e anche solo si è saltato il tempo libero per protestare contro l'entità sionista che occupa territori palestinesi e porta avanti il suo genocidio di Stato. Le manifestazioni locali ci portano quindi all'Interporto di Padova, dove un nutrito corteo va a contestare la presenza della Maersk, azienda che trasporta ben più che beni di prima necessità. Sulle modalità del corteo e sul resto non diremo molto di più. Chi era presente ha ben visto cosa è successo e come è stata gestita la piazza, e chi vuole può trarre da sé le conclusioni che ritiene giuste. Quello che di sicuro ci siamo portati a casa è un sentimento di rabbia contro la società dello spettacolo, che si rappresenta uguale sia dentro che fuori la manifestazione. Si apprende dai giornali che durante il suddetto girotondo e durante la suddetta manifestazione 60 anarchici avrebbero bloccato un camion lungo il percorso. Sempre stando alle dichiarazioni della stampa, pare che quel camion dovesse trasportare a destinazione un carico importantissimo, ma che la manifestazione e questi suddetti 60 anarchici, magari di nuovo, l'avrebbero bloccato. Possiamo solo immaginare cosa veniva portato dentro il camion. L'elisir di eterna giovinezza, la pietra filosofale, purtroppo non lo sapremo mai, e quindi ci limiteremo a raccontarvi dei fatti accaduti. È un po' complesso parlare di blocco stradale quando un blocco stradale non c'è stato, così come è complesso parlare di manifestazione non autorizzata mentre è in corso nello stesso luogo, nello stesso posto e nello stesso tempo un'altra manifestazione. Eppure, a quanto pare, due persone che camminano in mezzo alla strada, eppure sulle strisce pedonali a dirla tutta, così come il resto della manifestazione, sarebbero state promotore e promotrice di un blocco stradale e di una manifestazione non autorizzata. Sui fatti specifici non c'è molto da dire, perché non sussiste nulla. Su una strada già bloccata da una manifestazione, in cui non si può né uscire né passare, è davvero possibile fare un ulteriore blocco stradale? E essendo dentro una manifestazione, nello stesso posto, nello stesso tempo, è davvero possibile un'altra manifestazione? Fare un'altra manifestazione? Ma per fortuna a queste domande, a cui da qualche riga non troviamo risposta, abbiamo chi ci può indicare la via. La repressione finta invalida, infatti, fa finta di non vedere l'ovvietà dell'assurdità delle accuse mosse. Quindi, al termine della manifestazione, insegue un compagno e una compagna per fargli fare una gioiosa gita in questura, durante la quale viene comunicato a entrambi l'apertura di un'indagine per manifestazione non autorizzata. La compagna, una violazione del foglio di via da Padova, un altro degli scherzetti della questura per questo interessante 25, e al compagno un avviso orale condito di rassicurazioni sulla possibilità di ottenere in futuro anche una bella sorveglianza speciale. La domanda che sorge spontanea è proprio perché proprio a queste due persone venga imputato un reato che non sussiste. Ma su questo torneremo dopo. Fin qui la riproduzione della repressione non è qualcosa di non visto. Processi inventati, accuse infondate e giustizia sommaria sono questioni trite e ritrite. Entra quindi in gioco il vero elemento di novità della vicenda, la repressione centometrista. Come infatti avrete potuto leggere, in questura non viene contestato subito il reato di blocco stradale. Come fanno quindi il compagno e la compagna a esserne a conoscenza? Beh, perché poco più di un mese dopo dall'apertura dell'indagine è arrivata anche la chiusura. Le chiusure indagini di solito impiegano mesi, se non anni, per essere notificate. Infatti in Italia l'unica cosa che ci è sempre andata bene è la lentezza della burocrazia e delle scartoffie che compagni e compagni dal resto d'Europa ci invidiano ardentemente. La domanda che sorge spontanea quindi è: perché arriva una chiusura indagine dopo un mese per un fatto che non sussiste? Perché sono stati fermati proprio quel compagno e quella compagna? Torniamo quindi alla domanda di qui sopra, a cui diamo una risposta con un'altra domanda: chi ha paura dell'anarchia? Eh sì, perché le due persone fermate sono così definite dalla giustizia locale, anarchici. Non è un caso che da settembre a questa parte diverse indagini di polizia di cui siamo a conoscenza, sempre leggendo ai giornali, abbiano portato a indagare persone che pare siano afferenti alla cosiddetta area anarchica. A settembre, infatti, tre compagne si vedevano entrare in casa sgherri in divisa che accusavano, udite udite, del gravissimo reato di striscioni appesi. Dalle foto sui giornali apprendiamo fossero in solidarietà Alfredo Cospito, Mohamed Awad Attia e ad alcuni compagni indagati nei processi a Torino e Milano per i cortei contro il 41 bis della stagione di lotta a fianco di Alfredo, istigazione a delinquere e ricettazione, i reati contestati. Parlando di quei mesi di lotta per e con Alfredo contro il 41 bis, si nota un parallelismo quasi lineare. In coda a quel periodo, 2 anni e mezzo fa, sempre a Padova, tra l'altro il compagno accusato di blocco stradale in questa vicenda, piombavano in casa le guardie. I reati contestati allora? Istigazione a delinquere e imbrattamento, compagno poi assolto in primo capitolo, sempre durante questo movimentato autunno. Ma cos'altro accomuna questi due momenti? Beh, viene da pensare che in una città pacificata come Padova una compagine anarchica venga vista un po' come un elemento che esce dagli oliati sistemi di pacificazione cittadina. Qui lo diciamo chiaro, gli ultimi reati contestati e le perquisizioni di adesso come di allora fanno parte di un unico grande schema repressivo. Ogni volta che c'è la sensazione che esista una componente rilevante di anarchici e anarchiche nel contesto patavino, la risposta immediata è quella dell'intimidazione, in primo luogo verso le compagne e i compagni che si ritrovano a dover affrontare procedimenti penali per nulla, in secondo luogo per le persone che potrebbero avvicinarsi a questa suddetta area, che vengono intimorite indirettamente dal rischio di denunce, indagini e quant'altro. Ed infine la famosa teoria dell'accumulo, per cui più accuse senza senso ti do, più se un giorno mi va di darti una misura cautelare ho terreno di manovra per richiederla. Pacificazione e repressione diventano fenomeni contigui. La repressione come mezzo di pacificazione, la pacificazione come repressione interna, in uno spettacolo che si ripete sempre uguale dentro e fuori dagli ambienti antagonisti. Fortuna vuole che il vittimismo, anch'esso figlio non riconosciuto della pacificazione, non sia qualcosa che ci appartiene, così come non ci appartiene il qualunquismo sensazionalista di chi dice che finiremo tutti in galera. Parlare della repressione e fare considerazioni sulla stessa servono per osservare in maniera materiale la realtà che ci circonda, capire come si muove la repressione nel nostro contesto geografico e capire come affrontarla al meglio. Per ribadire il concetto che non dobbiamo farci intimidire da accuse fasulle inventate, per dire che se il conflitto politico-giudiziario che sia viene a bussare alla porta, saremo pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Per dire ancora una volta, e non ci stancheremo, che finché sussisteranno le motivazioni delle nostre lotte, ci troverete vostro malgrado tra i vostri piatti e fetidi piedi. Se questa storia ci insegna qualcosa, è che non siamo per forza certi, e non ne siamo per forza certi, e che hanno più paura loro di noi che noi di loro. Dove sta la tua esistenza in questi giorni? La cerchi di continuo ma non riesci a trovarla. La scovi poi una vecchia stanza appesa al soffitto come un lampadario. È spolverata e tutte le lampadine sono bruciate. Sono i difetti che con la scorrere degli anni aumentano, e su tutti l'amore diventa impossibile da sostenere. È la gravità del mondo che non riesce a smuovere. Soffitto, hai vinto una perenne condizione di inferiorità. Con il pianto, con le urla, mi sta facendo buio, viene gettato una fune di brande tesa, ma tu non la ferri, ti abbandoni, ruotate d'esausto in una dissolvenza in nero. stata una fune vibrante e tesa, ma tu non la ferri, ti abbandoni ruotando ed esausto in una dissolvenza in nero. Sì, non è la prima volta che capita, ci siamo fatti prendere la mano, nel senso non abbiamo valutato bene i tempi e avevamo annunciato un approfondimento, diciamo, su questo, degli spunti di approfondimento su questo, a partire da questo articolo molto interessante, sempre da disfare, numero 3, alle radici della guerra automatica, appunti per una genealogia dell'intelligenza artificiale. Articolo curato dal collettivo Terra e Libertà, però siccome è molto, cioè non, è peccato, diciamo, bruciarlo così in pochi minuti, è meglio che se lo affrontiamo la prossima volta, insomma in un altro momento, e quindi portiamo a compimento, diciamo, questa puntata qua. Allora, prima della parentesi sui compagni di Padova, sulla repressione che ha colpito il compagno e la compagna di Padova, e abbiamo letto la dichiarazione di Giovani Palestinesi e UDAP contro l'esternazione della Meloni. E quel comunicato era precedente agli arresti, all'operazione repressiva del 27 di dicembre, appunto operazione Domino l'hanno chiamata. E in seguito però a questa operazione i Giovani Palestinesi d'Italia qualche giorno fa hanno appunto prodotto un ulteriore comunicato, perché appunto si dove analizzano, diciamo, l'esito, anche cioè il perché è avvenuta questa operazione repressiva e anche l'esito che ha avuto sul piano della propaganda governativa, insomma. Allora ci dicono i compagni Giovani Palestinesi d'Italia, cioè tornano a citare appunto la pretesa della Presidente del Consiglio di pretendo di sapere da queste persone se la resistenza della quale si parla sia Hamas, perché non accetteremo proseliti del terrorismo a casa nostra. E ci dicono appunto i Giovani Palestinesi d'Italia, la domanda della Presidente del Consiglio su Hamas non era retorica, aspettava la risposta degli arresti del 27 dicembre. Quindi è chiaro l'intento anche appunto intimidatorio degli arresti del 27 dicembre. Ugualmente non è un caso che in quella stessa giornata abbia chiesto agli esponenti dell'opposizione di esprimersi e di rendere conto dei loro rapporti con Hanun, dando il via ad una precisissima macchina del fango che ha come obiettivo la demonizzazione del movimento per la Palestina in Italia. I principali giornali di destra, Il Giornale, Libero, La Verità, Il Tempo e i parlamentari della maggioranza stanno avanzando come uno schiacciasassi sulle opposizioni inermi e propense alla dissociazione. Gli obiettivi di questa operazione sono i seguenti: riabilitare l'immagine del governo e della destra sugli affari esteri, affermandosi come attore diplomatico amico dei palestinesi, tra virgolette, buoni, della cricca di Abu Mazen. Il confronto con l'autorità nazionale palestinese ha sicuramente messo il governo di fronte al fatto che le autoproclamate, come le chiama la Meloni, associazioni palestinesi non sono un interlocutore spendibile. Perché oltre ad aver espresso delle posizioni radicali nei confronti del posizionamento dell'Italia, sono riusciti ad emarginare la parte collaborazionista legata all'ambasciata palestinese e ad Abu Mazen, che sicuramente avrà discusso con la Meloni del suo rilancio nel paese. Altro obiettivo è colpire le opposizioni parlamentari su quello che la destra considera il pezzo forte della sinistra, la Palestina. Questa operazione è anche una reazione alla mobilitazione degli scorsi mesi, culminata il 4 ottobre, che ha messo in serio pericolo la tenuta del governo e che ha visto le opposizioni chiedere le dimissioni della Premier, fallendo miseramente. Ora la Meloni si può vendicare colpendo i nemici con la loro stessa arma. Le opposizioni stanno mostrando tutta la loro debolezza, di fatto piegandosi a questo clima da inquisizione. Da Fratoianni a Conte, passando per Boldrini, arrivano dissociazioni sul nulla, a delle prese di posizione vergognose contro chi secondo loro danneggia i palestinesi e contro chi secondo loro sporca l'immagine del movimento Propal. troppo impegnati a salvarsi la faccia da non si sa bene cosa, consentono alla Meloni il passaggio definitivo allo stato di polizia di guerra, che si afferma con gli arresti politici, la fine della libertà di espressione, la chiusura degli spazi sociali e una repressione indiscriminata, rendendosi persino nella battaglia contro una legge di bilancio vergognosa. Ci chiediamo, quando la sinistra ben pensante gridava al fascismo, a cosa pensava esattamente? Al posto di slogan vuoti e dissociazioni, la sinistra dovrebbe reagire a una destra che afferma i suoi piani di guerra al fianco dell'alleato israeliano, con i manganelli ma anche con i processi politici. E se non lo fa, è evidente che quei piani di guerra fanno gola anche a chi si finge opposizione, ma non si è mai opposto al riarmo. Il governo Meloni non rappresenta una deviazione fascista nel Parlamento, è la punta dell'iceberg degli interessi bellicisti e repressivi, tutti al fianco del sionismo, della classe dirigente di questo paese. Oggi più che mai è necessario organizzarsi per contrastarli. E questo era appunto il comunicato dei giovani palestinesi d'Italia dello scorso 5 gennaio e sì, non ci resta che insomma associarci a questa necessità di organizzarsi per contrastarli. Stop the bombing of Gaza. Sei in transit, sei musica. Sempre in diretta su Blackout e siamo qua con i nostri ospiti di questa sera. Cosa vi portiamo? Cosa vi portiamo all'ora di cena? Niente meno che gli strangolatori del Gange. Funesta inquietudine, perdonare o meno il mio turbamento, perdonare o meno la mia funesta inquietudine. Cecilia si arrampica come una pianta, col vizio di insinuarsi sempre oltre ogni recinto. L'attrazione per la vertigine dell'altrove, una sfida ai confini delle realtà che ci vengono date, un'eventualità cieca. Come cieco radici nella mia testa cruda. E teniamo in sottofondo questa band, loro sono gli Strangolatori del Gange, band di Torino, e questo è il loro secondo album, uscito la scorsa estate 2025, che appunto si intitola semplicemente Sette Pezzi. E questo appunto, come ho detto, del 2025, mentre la loro prima uscita discografica era avvenuta con un altro album nel 2023. Comunque, come presentati, loro sono gli Strangolatori del Gange. Bene, questi erano i torinesi, gli Strangolatori del Gange, da questo loro album uscito l'estate scorsa 2025, che si chiama semplicemente Sette Pezzi. Ora invece andiamo all'ascolto di una band svedese dell'area di Stoccolma, loro sono gli Imperial Leader, e da un loro album datato 2005, che tra l'altro quasi tutte le loro uscite discografiche erano per l'etichetta statunitense Profane Existence, e comunque questo album si chiama Something Out of Nothing, Imperial Leather. Bene, allora stavamo ascoltando l'Imperial Leader, band svedese, e che probabilmente, anzi sicuramente, faremo in modo di riuscire ad ascoltare un altro brano. Prima però vi saluto, perché siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo ovviamente che il programma funziona e va avanti grazie all'impegno dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Anche oggi, dopo una pausa di due giovedì, cause maggiori, ovvero festività che cadevano il giovedì, oggi abbiamo ripreso per questo primo giovedì disponibile, che è del 2026, ovvero l'8 gennaio. Ricordo i nostri contatti: se volete scriverci potete inviare la mail all'indirizzo di liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Ricordo che questa trasmissione odierna, ma anche quella delle volte scorse, potete andare a riascoltarle sul blog, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, quindi salutiamo tutti, anche chi ci ascolta domani in replica, domani venerdì dalle ore 11 su Radio Eustachio, e alle ore 17 sempre di domani venerdì su Radiazione. Entrambe queste due sono due web radio, quindi ci salutiamo al prossimo giovedì, cioè ci salutiamo per riascoltarci il prossimo giovedì, e vi lascio con questo ultimo brano degli Imperial Leader. Ciao a tutti, al prossimo giovedì.